La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon pomeriggio qui dagli studi di Milano, grazie per l'ascolto in diretta in podcast a Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, come sempre, la versione di Oscar @radio24.it per nuove puntate, se volete intervenire, d'Italia non per giovani, ne facciamo una o due a settimana e andiamo avanti ancora, oppure naturalmente per proporre altri temi di trasmissione, domande, quesiti, critiche, osservazioni. Vi dico subito la puntata di oggi, che cosa è dedicata, nelle due parti della puntata, due aggiornamenti su, chiamiamoli così, i cantieri delle riforme, perché il problema delle riforme italiane, lo sapete, spesso sono che vengono annunciate, i giornali e i media si riempiono di ore di trasmissione, di decine e decine di pagine sugli annunci, poi il problema è invece controllare nel tempo che cosa le riforme diventano davvero nella loro attuazione e così via, e quindi ci dedicheremo in particolare a due questioni. La prima è: cosa sta succedendo intanto nel vasto cantiere che interessa centinaia di migliaia di italiani precari della scuola, dopo le due tornate, la prima tornata di regolarizzazioni un anno fa con la buona scuola, poi il concorsone che bandito d'estate ha avuto esiti di cui abbiamo già parlato in diverse puntate, sia per il ritardo di moltissime commissioni sia per l'altissima percentuale di coloro che non lo hanno superato, e quindi faremo una riflessione su due particolari aspetti che riguardano ancora o concorsi da bandire o i precari che chiedono altre cose, perché il ministro ha promesso delle nuove cose e ci interrogheremo a se sono giuste, b se davvero verranno adottate. Secondo punto di riflessione e di verifica, un altro cantiere: ci spostiamo alla riforma della pubblica amministrazione, del decreto legislativo delegato sulle partecipate, tante volte annunciato, ridurremo le partecipate da 10.000, 8.000, 9.000, non sappiamo neanche il numero a dire la verità di preciso, a un quinto. È veramente così? La risposta è no, già nella versione del decreto legislativo, ma adesso c'è un confronto in corso tra le regioni e la Madia, perché il decreto era stato bocciato in quanto non c'era stata la necessaria richiesta di convergenza in conferenza Stato-Regioni, e vedremo se le nuove modifiche che arrivano non restringono ulteriormente il campo di applicazione, quindi anche in quel caso siamo in una riforma annunciata ma la realtà sarà molto diversa. Cominciamo però dal fronte della scuola, e abbiamo con noi, e io molto lo ringrazio perché, a dire la verità, la testata a cui appartiene è una fonte insostituibile per chiunque voglia seguire tutti gli aspetti tecnici e di indirizzo del mondo della scuola e dei provvedimenti normativi della scuola. Sto parlando appunto di Tutto Scuola, e grazie a chi lo fa tutti i giorni, ed è con noi e lo ringrazio. Buon pomeriggio Sergio Govi, che appunto è il redattore di Tutto Scuola, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie per l'apprezzamento verso la rivista. No, ma assolutamente condiviso da tutti i colleghi che si occupano di queste cose. Senza di voi sarebbe tutto molto più complicato, perché bisognerebbe interfacciare solo il Ministero e quindi sarebbe più problematico. Detto questo, quali sono le due questioni su cui ho chiesto a Sergio Govi e a Tutto Scuola di darci un approfondimento? La prima: io ho visto con grande curiosità annunciato, la notizia era data da due quotidiani in Italia, un provvedimento in arrivo di esame di abilitazione semplificato per coloro che non hanno superato il concorso della scorsa estate, e sempre per i precari. In gergo tecnico, nella delega, si chiama delega 377, che attualmente è all'esame del Parlamento, dopodiché tocca al ministro Fedeli la versione finale, potrebbe spuntare una specie di concorso semplificato, un concorso leggero per stabilizzare i precari abilitati di seconda fascia delle graduatorie, per essere preciso a chi ci ascolta, di istituto, e a quelli di terza fascia che abbiano fatto almeno 36 mesi di supplenza. E il ministro ha fatto chiaramente intendere, e materia di trattativa con i sindacati, che i docenti a quel punto entreranno in ruolo con un esame orale, mentre i non abilitati con 36 mesi di servizio entrano in ruolo con un concorso semplificato, un solo scritto anziché due, e con un tirocinio ridotto rispetto agli altri. Allora, la domanda è: ma se arriviamo ai concorsini semplificati per andare in cattedra, Non si tradisce tutto quello che era stato detto sul fatto che con il concorsone si misurava il merito, eccetera, eccetera? Che cos'è? È una risposta dell'amministrazione di fronte al fatto che c'è stata un'altissima percentuale che non lo ha superato e con la Fedeli quindi si fa finta di niente e si danno le cattedre con un esame orale? La domanda per i non addetti ai lavori, cioè da parte mia, è questa, e mi gratto la testa perché mi sembra anche qui una riforma annunciata in un modo e che poi si piega alla dura legge della realtà. Ma a questo punto, parere di tutta scuola di Sergio Govi, è così oppure no? Ci spiega un pochino? Dunque, intanto il decreto legislativo era già stato nei suoi elementi principali definito insieme alla legge 107 della buona scuola, quindi quegli obiettivi, quella procedura apparentemente o forse sostanzialmente semplificata era stata già decisa prima del bando del concorso, cioè cosa si proponeva e quindi si propone adesso lo schema, quello di recuperare chi ha già comunque dato prova di preparazione per arrivare attraverso sempre un concorso che salta la prova scritta alla immissione in ruolo. Se vuole questa semplificazione, che quantomeno salva il principio costituzionale che al posto di ruolo nella pubblica amministrazione ci si arriva con concorso. Però lo salva, mi scusi, l'impressione è che lo salva con l'escamotage, cioè il problema è, siccome non riusciamo a esaurirli i posti delle graduatorie né con la prima leva di assunzioni, cos'erano 87.000, 93.000 la prima, né con quelli del concorso che sono risultati di molto inferiori rispetto ai 63.000 che ci si aspettava, ecco che procediamo con una specie di surroga, un escamotage, gli orari solo o no, mi sbaglio? Beh, diciamo che non potevano sapere nel 2015 che ci sarebbe stata tanta selezione e posti vacanti nel concorso. Soltanto adesso siamo in grado purtroppo di accertare che un terzo finora dei posti che sono stati lavorati nelle graduatorie di merito rimarrà scoperto. Allora si pensava che tutto andasse a posto, che il concorso concludesse positivamente la copertura dei 63.712 posti, ci si rende conto che le cose si sono complicate lungo la strada e quindi diciamo che questa semplificazione, apparente semplificazione, cioè è augurabile che le commissioni facciano comunque bene il loro lavoro, era fatto a priori prima di affrontare un problema che si è complicato lungo la strada. Comunque la seconda parte di quel recupero prevede e lo scritto e l'orale. E lo scritto e l'orale. Quanta è la vostra stima attuale, prima di questa nuova procedura semplificata, dei precari che restano nella scuola malgrado la prima regolarizzazione generale e il concorso della scuola estate? Più o meno quanto si può quantificare che esistano ancora nelle diverse graduatorie? Ma un anno fa o due si poteva prevedere che fossero 40-50 mila. Purtroppo finora il concorso di cui abbiamo parlato adesso, semplificato o meno, riguarda soltanto la secondaria di primo e secondo grado, ma purtroppo attraverso sentenze del TAR e del Consiglio di Stato è stata aperta la porta ad altri vecchi abilitati. Esatto. Che stanno entrando in massa centinaia e aperta la porta, prima o poi dovranno i giudici accettare i vari ricorsi e quindi quel numero di 40-50 mila potrebbe forse raddoppiarsi recuperando precari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che non, casomai non avevamo mai affrontato un concorso, non hanno mai lavorato. Non sbaglio se dico che il rischio dopo sentenza è quello di trovarci, malgrado quello che è stato fatto con la buona scuola per la regolarizzazione, di fronte a un fenomeno di precari residui intorno di nuovo a 70-80 mila unità. Ci si può arrivare? Ci si può arrivare. Ahimè, l'obiettivo della buona scuola che era quello di stabilizzare il sistema, cioè portando in cattedra il maggior numero di persone stabili di ruolo, si sta in buona parte vanificando, primo perché il concorso non ha centrato l'obiettivo, probabilmente a fine concorso rimarranno scoperte 20-21 mila cattedre. Sì. E non è poco. Poi ci aggiungiamo questa azione non prevista oppure temuta ma non a questo livello dell'apertura ad altri precari, per cui la stabilizzazione sta diventando un sogno. Ecco, allora io ringrazio Sergio Goi perché qui volevo arrivare. È un dato di fatto, come vedete, cioè non dipende dalle intenzioni della riforma, non dipende, però questo problema, che era il motivo numero uno per mettere in riga al quale l'Europa ci aveva messo sotto procedura di infrazione, cioè la regolazione dei precari, non sarà raggiunto. Non sarà raggiunto. Resteranno per migliaia e migliaia di famiglie italiane cui figli frequentano scuola supplenti, incarichi ballerini, eccetera, eccetera, e il fenomeno rischia di tornare di nuovo su un ordine di grandezza di 70-80 mila unità. Sappiamolo, perché nel futuro questo è un problema che resterà e non è risolto. Torniamo tra un minuto. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati dopo la prima parte della trasmissione dedicata alla verifica del cantiere della buona scuola, e abbiamo sentito da Sergio Goi di Tutto Scuola come purtroppo il problema numero uno per cui è nata quella riforma, al di là delle sbandierature, un grande assumificio per la regolarizzazione dei precari italiani, si può a questo punto considerare non raggiunto, perché tra l'esito del fallimento del concorso la scorsa estate di fronte all'altissima percentuale di coloro che hanno rivelato alla prova di concorso di non essere all'altezza, perché di questo si tratta, cosa che ci dice purtroppo molto dell'offerta di formazione degli stessi formatori italiani. Molti dicono che come sempre hanno contestato la prova di concorso, però io dico che quando una percentuale così elevata, quindi 23 mila cattedre scoperte restano perché non si supera il concorso, c'è un grande problema, come evidente, sugli iter formativi. Però detto questo, a questo si sommano nuove sentenze e nuove figure dei precari della scuola primaria, dell'infanzia, eccetera, torniamo a quota 80 mila precari che in attesa di stabilizzazione, e abbiamo visto anche procedure ipersemplificate di concorsini con i solo orali e così via, pur di mandare in cattedra chi ha comunque l'abilitazione. Io mi gratto la testa, ma al di là di questo il problema è che la questione resterà aperta per anni, le supplenze e gli incarichi a tempo resteranno per anni. Nel frattempo il concorso non sta bandendo, il ministero non sta bandendo il concorso per 1500 dirigenti scolastici, problema aggiuntivo, e insomma si può dare oramai un giudizio, e io faccio mio quello di Tutta Scuola che abbiamo sentito. Spostiamoci adesso e andiamo al cantiere della riforma della pubblica amministrazione, in particolare decreto legislativo sulle partecipate pubbliche, uno di quei decreti colpiti dalla sanzione della Corte Costituzionale, perché in conferenza Stato-Regioni il governo si era comportato come se fosse già stata approvata la riforma costituzionale del 4 del referendum del 4 dicembre, che invece è stata respinta, e quindi bisognava invece su quei decreti delegati legislativi cercare il consenso, la ricerca dell'intesa, il che non significa che bisogna per forza essere d'accordo con le regioni in conferenza Stato-Regioni, però bisogna fare l'impossibile per cercarlo, e lì invece era stato solo mandato pro forma. Quindi nuova stesura del decreto sulle partecipate pubbliche, 10.000, 9.000, 8.000 che siano, perché ripeto la contabilità precisa secondo le diverse banche pubbliche è diversa. Una stesura del decreto legislativo Madia che io ho criticato all'inizio perché è ancora più flebile di quella precedente, per esempio nel decreto legislativo che attualmente è al confronto con le regioni basta un atto motivato del presidente della regione per levare dalla disciplina del decreto legislativo qualunque partecipata regionale, basta un atto motivato, quindi come potete capire ogni regione lo farà. È saltato per esempio il codice dell'onorabilità per le società partecipate locali, perché c'è stata un'eccezione da parte degli enti locali che dicono: perché lo dovete definire voi, lo vogliamo definire noi? E io non vi devo dire, cari ascoltatori, quanti politici trombati stanno nelle partecipate pubbliche. Ma al di là di tutto questo, adesso nel passaggio e nel confronto con le regioni stiamo apprendendo di nuovi aspetti che diluiscono, annacquano, annullano, dite quello che volete, io dico annacquano quantomeno ulteriormente la versione già annacquata del decreto sulle partecipate. dalla quale quindi io non mi aspetto più quasi niente. Allora, per capire bene quali sono questi punti aperti, ne ha parlato il Messaggero 2 giorni fa, e per capire il giudizio da dare, se siano particolari secondari, se sono invece centrali, abbiamo con noi il vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio Serena. Buon pomeriggio. Allora, prima, perché poi mi interessa anche un giudizio tuo sul testo del decreto, ma questi punti su cui il Messaggero ci ha informato che ha aperto il confronto, quanto sono importanti? Quali sono? Beh, sono punti molto importanti perché riguardano il taglio dal punto di vista della spesa pubblica, perché riguardano il dimezzamento del taglio delle partecipate. Cioè, il decreto originario, prima dell'intervento della Corte Costituzionale, diceva che dovevano essere tagliate le società che avevano un fatturato inferiore a 1 milione di euro. Ora le regioni stanno negoziando perché siano tagliate le società con un fatturato inferiore a 500, quindi esattamente la metà. Sono ovviamente, non abbiamo certezze perché se ne sta discutendo questi giorni, ci sono queste anticipazioni. Tra le anticipazioni c'è anche il fatto che forse le regioni graziosamente si potrebbero accontentare non di un dimezzamento definitivo, ma di un dimezzamento del taglio, quindi del limite a 500 e non a 1 milione per i primi 3 anni. Però noi sappiamo anche che le deroghe, proroghe e periodi poi diventano in Italia permanenti. Sempre permanenti, quindi dal punto di vista del cittadino e del contribuente il dato serio è il fatto che l'occasione di dover rivedere insieme alle regioni per le questioni procedurali che ha sottolineato la Corte Costituzionale, l'occasione per rivedere quel testo che era più severo, abbastanza severo sul taglio appunto delle partecipate, è l'occasione per negoziare invece a livello politico un dimezzamento, scusate il gioco di parole, ma è così, un dimezzamento del taglio, cioè non taglio quelle sotto 1 milione ma taglio quelle sotto 500.000, esattamente la metà, questo al di là di altri tagli. Poi c'è un'altra, l'altra questione abbastanza seria, sempre molto seria anzi dal punto di vista sempre politico e di trasparenza anche nei confronti dei cittadini, che è quello sulla incompatibilità a ricoprire cariche di amministrazione delle società partecipate, diciamo degli esclusi dalla politica locale, che come dicevi te è stato è stato sempre un modo per i politici locali di francamente riciclarsi, quello di andare a occupare poltrone nelle società partecipate locali. Era qui previsto un divieto, questo divieto è uno di quegli aspetti in oggetto di negoziazione ora con le regioni. Ed è una sorta di ricatto, nel senso che le regioni stanno utilizzando, almeno a quanto si apprende appunto dalla stampa, stanno utilizzando il fatto di dover procedere di nuovo alle formalità per arrivare al decreto legislativo per mettere dentro quello che vogliono loro e che l'altra volta non era passato. Ora, per capirci, quelle sotto il milione, delle 8.000 o 9.000 o 10.000 a seconda delle diverse banche date pubbliche partecipate locali, quelle sotto il milione sono 1.900, non sono poche, quindi sì, sono comunque scatole con amministratori, cari ascoltatori, cioè con gente che prende un gettone eccetera eccetera, capito, per poche centinaia di euro. Però c'è un aspetto che poi a chi ama il mercato della concorrenza, questo per certi versi è persino peggiore, perché riguarda una trattativa in corso, è sempre il Messaggero a informarcene con Andrea Bassi, sul fatto, dopo anni che i politici vi dicono, cari ascoltatori, ma metteremo un limite temporale per l'esaurimento delle gestioni in house, cioè le società interne al perimetro che invece magari hanno offerta di servizi strumentali alla pubblica amministrazione che andrebbero sottoposti a gara e invece così vengono, per così dire, segmentati all'interno del rapporto pubblico-pubblico. Ora qui non solo non si fa per l'ennesima volta questo, perché a dire la verità già nel decreto originale Madia non c'era lo stop della gestione in house, c'erano delle norme restrittive ma comunque secondo me troppo facilmente aggirabili, ma qui secondo le indiscrezioni, Serena, stiamo parlando invece di un'estensione delle gestioni. Dice che possono partecipare alle gare, è così? Sì, è così, è una cosa, è così. In realtà era così anche dalla giurisprudenza amministrativa. Diciamo che l'intervento della questo intervento, se così sarà fatto, certifica quello che già i giudici italiani amministrativi avevano negli anni detto, ma per sottigliezze molto barocche. Cioè, nel senso che io comune affido una gestione di servizi in house a una mia emanazione, e questa cosa in house può partecipare alle gare in altri ambiti territoriali. Io in house posso partecipare, io società in house posso partecipare a gare di altri ambiti territoriali, in virtù appunto di una giurisprudenza che aveva detto, che aveva posto dei limiti. Per esempio, posso partecipare soltanto per bandi per la produzione di beni o servizi che non sono strumentali all'ente di cui sono in house. Sono sottigliezze significa che una gestione in house fa concorrenza a privati forte del fatto di avere una solidità economica finanziaria che gli deriva da un committente pubblico. Il problema è che noi stiamo andando assolutamente in direzione opposta rispetto a quello che dice un po' il buon senso, un po' diciamo tutta la grande riforma che avrebbe voluto il passaggio dall'amministrazione che fa all'amministrazione che aggiudica gli appalti. E questo è un ultimo tassello, cioè noi altro che andare verso la messa a gara dei servizi pubblici, la riduzione del ricorso all'in house soltanto quando si rileva che non c'è mercato, diciamola così. Stiamo andando in direzione completamente opposta. Se il nostro sistema fosse un sistema davvero concorrenziale, allora questa regola qui per cui le società in house possono partecipare anche in altri ambiti avrebbe un senso molto diverso rispetto al nostro contesto, dove non c'è mercato dei servizi pubblici, quindi appunto le società in house hanno semplicemente gioco facile ad andare a gareggiare altrove vincendo, perché appunto loro, come dici te, hanno una stabilità economica. Ma il presupposto, qui lo chiedo all'accademica di diritto pubblico quale tu sei, ma il fondamento nella nostra giurisprudenza amministrativa per il quale un, a me sembra innegabile, vantaggio pubblico di una gestione in house non pesa rispetto al partecipare a gare invece aperte alla concorrenza di privati. Il fondamento amministrativo del giudice nel prendere questa decisione, in realtà qual è? È l'elemento oggettivo della strumentalità che giustifica il divieto, e non il fatto che la società sia partecipata dall'amministrazione pubblica. Quindi in altre parole, se capisco bene, se no correggimi, è un divieto che ipotizza il vantaggio dell'ente pubblico rispetto a cui quello che va a partecipare a una gara aperta al mercato altrove dà un servizio in house. Se non c'è questo vantaggio per quell'ente pubblico, poco importa, anzi non importa nulla che il vantaggio in realtà sia la società in house, perché quello non rileva. L'unica cosa che potrebbe costituire un elemento di veto sia se il comune di cui Serena è una gestione in house, il comune Giannino ci guadagna qualcosa. Il comune Giannino non ci guadagna niente, però la società in house Serena esiste grazie al fatto che il sindaco Giannino la fa esistere, e io a quel punto posso liberamente ottenere che la società in house Serena va a fare concorrenza a privati che però non hanno sta forza. Appunto, è questo il fatto, che non c'è una forza. È una giurisprudenza col trucco, direbbe Giannino, che ovviamente è uno spaccamarroni. È una giurisprudenza estremamente astratta. È una giurisprudenza che in astratto può anche funzionare, ma il nostro sistema di, tra virgolette, mercato dei servizi pubblici locali, è tale per cui una regola astratta così non funziona, non consente il fiorire e lo svilupparsi di quel mercato. Cioè è una regola che può valere indipendentemente per tutti i paesi dell'Unione Europea, ma noi non siamo l'Inghilterra, siamo la Svezia, ringrazio Serena Sileoni, perché per certi versi io, neanche se ci avessi provato tutta la vita, sarei diventato un accademico. Perché a me sembra che se una società ha un vantaggio discrezionale dal fatto che ha una gestione discrezionale in house pubblico, e questa è la sua forza finanziaria, il suo perimetro di bilancio eccetera eccetera, ha un vantaggio, e come, rispetto a un privato. Se la giurisprudenza amministrativa dice di no, io mi inchino. Detto tutto questo, grazie a Senassi Leoni, ma cari ascoltatori, non cambio idea. Questo è il paese della giurisprudenza col trucco. Quindi, come si vede, le partecipate scompariranno, come avevano detto, tranne pochissime? Ah, no! Le regioni stanno trattando perché diminuiscano, aumentino? Non stanno trattando perché diminuiscano, ma per difenderle. C, i trombati, le regioni li stanno difendendo. D, comunque un presidente di regioni potrà con un atto motivato evitare che si chiudano. E, oltretutto, le gestioni in house continueranno a partecipare a gare aperte ai privati in altri ambiti territoriali. Benissimo! Basta saperlo che queste sono le riforme dei fatti rispetto a quelle annunciate. Continuate con la 24, appuntamento con Alessandro Milano domani alle 8:20 del mattino, attenti a 2 come tutte le mattine da lunedì al venerdì.